ma non ascolta e non entra. E allora è chiaro che la gente a un certo punto dice non c'è più nessuno, non c'è più nessuno che parla, ma in ascolto probabilmente c'è qualcuno che non ha voglia di entrare, Leo. Ecco, oh, c'era il Michele che è matto qua. E non lo scrivo magari perché. Adesso lo metto a mano. Adesso va benissimo. Adesso sì, proprio Radio 5 è perfetta. Non c'è problema. Adesso ti ha ascoltato bene anche Natalino. Vai Natalino. Sì, certo che l'ho ascoltato bene. Magari adesso mi ascolta bene anche lui. Come mi stai ascoltando, Leone? Natalino Alfa 1 da Sassari qua. Sì, Natalino, no, arrivi bene adesso. Io ho mosso adesso, era il Mickey Gay, qua c'è un... No, il Mickey Gay, quello del Fegay, è a macchina, lo spesso è al vero. No, ti ascolto bene, dai. E cappa, ero aumentato appena appena e mi dovresti ascoltare meglio, capito? Tutto qui, avanti Giulio. 25 km da dove siamo noi, dalla città, da dove siamo noi, per cui va il caso che bisogna aprire tutto. Squelce, Mike Gay e tutto, per cui se vogliamo trasmettere come si deve, così almeno è anche più bella, il collegamento è più bello così, io volevo. Io guarda, ne ho comprato un mese di apparecchi, ne ho comprato tre adesso. Perché ne prendo uno e non sta uscendo, allora ne ho comprato un altro, ma sei pazzo. 5 apparecchi ho comprato da internet, ma per me quando li provo a casa con due antenne, tu sembrano chiari, poi in trasmissione lontano non mi ascoltano mai. Non devi, perché io adesso ti sento benissimo, è logico, se tu incominci a abbassare il Mikey Gay, eccetera, il Refe Gay, ascolti e trasmetti basso, è ovvio, perché poc'anzi a me mi ha detto che mi sentivi basso e io ti ho subito capito e ho provveduto subito, ma se faccio anche così, adesso che ho aumentato il Refe Gay, tu mi dovresti sentire bene lo stesso, Aiti, confermi che mi senti bene anche in questo passaggio. No, adesso ti sei abbassato, c'è il segnale che mi radio. Lo so, l'ho fatto apposta, ma è quello che ho voluto capire, perché poc'anzi mi hai detto quando avevi il Mikey Gay chiuso, il Mikey Gay abbassato, mi sentivi basso, lo credo che mi sentivi basso, lo credo, siamo a distanza, però adesso io sto uscendo con 2 watt, sto uscendo, e dunque, come vedi, anche 2 watt bastano per arrivare a Italy. Vai Leo. Io ho preso questo Crystal 8-4 con le bande, a me mi sembra che va bene, poi chiamo fuori e sto uscendo basso, stavo avendo la voglia di buttare. No, non devi buttare proprio niente, perché stai uscendo benissimo, non è vero che non esci basso, stai uscendo benissimo, si tratta solo di dargli la potenza che deve avere. Logico, se tu mi abbassi il microfono come faccio a sentirsi bene? Invece tienilo alto al massimo il microfono, che vedrai che tutti quanti ti diranno che esci bene, non ci sono dubbi, te lo dice anche Natalino, perché qua stai arrivando benissimo adesso. Vai Natalino. E infatti il macchinino vuole a manetta, perché sennò è logico che ci più basso. Io poco fa non riuscivo a capirti di quanto eri basso, adesso ti ascolto benissimo. Aspetta un attimo, dai, che sta con l'altro apparecchio, così mi ha dato un coglione, perché devo scegliere quale mettere in barra pesante, quello che va più bene devo mettere. Questo qui va benissimo comunque. E ti diamo il controllo, non c'è problema Leone. Comunque adesso mi sta arrivando abbastanza bene, soprattutto in quest'ultimo passaggio si è arrivato a bomba. Radio 5 perfetta, proprio bella, alta. E infatti, va via il macchinino a zero, ma è frutta non sia. Tu pensa che ero dai tempi di Serafino, ti ricordi Serafino, quello di Ugino, che si parlava sempre, per anni ha parlato, e parlavo io, lui, Leone, Aiti, e altre persone anche da fuori, facevamo queste cose, sto parlando di anni fa, ma sono passati parecchi anni, sono passati, adesso mi ha fatto piacere di sentirlo a Leone, dopo tantissimo tempo, capita, dopo che mi ha detto che Leone, Ritti, mi è venuto in mente trascorso che c'è stato prima in quegli anni, tante cose abbiamo fatto io, lui, anche quello di Usini, Tonino mi sembra che si chiamasse, di Usini, e tanti altri, ci collegavamo sempre tutti insieme, facevamo ruota, mi ricordo benissimo Tonino di Usini, anche sì, se ricordo bene, anche quello ormai è sparito da tantissimi anni. Leone, hai rimpiazzato? Attenzione Branco! Sì, avanti l'attenzione. Come sto uscendo? Bene, stai uscendo bene, ti ascolto bene. Giulio, come lo senti tu a Leo? Lo sento bene, non c'è problema. Ti sento bene, quando ti dicevano che non uscivi male, ti stavano dicendo delle bugie, o Leone, stai uscendo bene anche con quello. Avete parlato in due adesso. Ha detto che stai uscendo bene anche da lui, non c'è problema, anche con questo stai andando bene. Capito. Mi sento più diversamente con questo, mi sento più in pace, non so perché. E magari ci avrà l'RFI inserito e quindi magari arriviamo più bassi per quello. Esce bene lo stesso, Leone, esce bene anche quello, non c'è problema, per cui poi ti faccio una domanda se mi rispondi, a riguardo di Tonino da Usini, mi sembra che si chiamasse Tonino, se l'hai più sentito, io sono anni che non l'ho più sentito. Natali così, quanto è di segnale mio così? Vabbè, cambia allora, dai. Se lo vuoi cambiare, cambialo. Comunque c'è bene anche quello, non c'è problema da Leo. C'è un po' di propagazione, si sta aprendo la propagazione, oh Leo. No, volevo sapere se tu sei da tanto tempo senza te a sentire Tonino da Usini, mi sembra che si chiamasse Tonino se ricordo bene, quell'amico che si parlava, si faceva cose diversi anni fa, tutti insieme, io, tu, Serafino e quello di Usini anche, se ti ricordi. Sì, mi segui? Mi senti? Sì, adesso, dai, dimmi cosa volevi sapere. Stavo chiedendo se sei da molto tempo senza sentire a Tonino di Usini, mi sembra che si chiamasse Tonino, non vorrei sbagliare il nome. Ti ricordi che facevamo QSO allora, tantissimi anni fa, io, tu, Tonino di Usini, poi c'era anche Serafino di Usino e qualche altro che adesso non mi viene in mente. Stavolta per telefono, Tonino Attila, no, non sapete, vedo tutto. Tonino Attila, sì, adesso mi hai ricordato il nome nativo, sì. Tonino Attila, sì. Io sono anni, sarò minimo 10 anni, anche di più senza sentirlo, perché l'ha più sentito. Ecco perché non lo avevo sentito, perché ha venduto tutto. Vabbè, pazienza, evidentemente si era stancato anche lui. Vabbè, anche tu eri tantissimi anni, lo stesso, che non trasmettevi più. Lui ha venduto tutto, perché lui ha avuto come con la moglie, ha lasciato, quindi non sta modulando più, ha venduto tutto. Ho capito, vabbè, cose che succedono, Leo, cose che succedono. Ricordami il tuo nome di battesimo, Leo, che non me lo ricordo più, ormai sono invecchiato e sto perdendo un po' di memoria. Io sono Antonio, devo riprimo, Sì, Gio Maria c'è sempre, il vecchietto della frequenza come me, il vecchietto della frequenza, lui è anche molto più grande di me, moto di almeno 5 anni più o meno, più di me. Sì, tutti i giorni tu lo puoi sentire, tutti i giorni la sera, intorno alle 7:30 o 8:15 anche, e sul canale 23, tutti i tantissimi giorni lui c'è lì. Lui è Tore, un altro vecchietto stesso della frequenza. Per cui noi già ci siamo sempre, i più anziani siamo rimasti, poi degli altri, di quelli più giovani, non c'è più nessuno, lo so. Vai Natalino. E Cappara, io vi saluto e devo fare qualcosa qua, non posso rimanere. Grazie per il QSO Giulio e Leone, ci sentiamo alle prossime, dai. Per il momento io faccio QRT. Ok, ciao Natalino, grazie a te per la chiacchierata, allora dai. Un'oretta ce la siamo passata, anche di più, chiacchierando stamattina. C'è qui è andato a vedere la cavalcata e noi invece siamo rimasti qua. Va bene, ti mando avanti Leone per i saluti finali. Avanti Leone. Ehi, dai, saluti, ci vediamo alle prossime, dai. Speriamo di tornare a farlo della prossima. Ok, riprendo io allora di nuovo. Mi stavi dicendo che ce l'hai nella macchina, ce l'hai nel camion, cos'è? Da lavoro, insomma, il baracchino, lo Leo. Sentirai anche gli altri camionisti durante la giornata. Non ho capito, no? I camionisti non li usano più, adesso io lo volevo mettere, ma lo metto, non c'è nessuno nel 5, ma adesso mi ho preso la bellezza di 5 apparecchio, che ho comprato da Inter, non fa nuovo, non fa usata, che stanno canali, ma non c'è mai nessuno, ma adesso, va bene, allora ne prendo un altro, adesso ho preso questo con le bande, perché c'è qualcuno ed è lo stesso. Lo so, anche loro hanno cominciato ad abbandonare il baracchino, quelli camionisti, lo so anch'io, prima si sentivano molto, sul canale 5 erano sempre tutti i tantissimi giorni, ed era bello perché si faceva questo, e loro hanno optato adesso per il telefonino, magari si sentono tramite telefono, oppure si sentono con quella nuova applicazione della Midland, CBTalk si chiama, non so se tu l'avevi saputo, ma suppongo di sì, e magari si sentono su quelle frequenze lì, non lo so, Leo. E vabbè, comunque, speriamo che si riprenda la frequenza, ma ho la sensazione che di questo passo, se la gente non entra, sarà difficilissimo rifarla come alla grande, come prima, dai. No, ma sono le nostre Sardegna, poi se scendi verso Cagliari, sono ancora poi il continente sta, io mi vedo filmato in YouTube che stanno sempre modificando apparecchi, modificando ecco, di queste cose, ma la gente costavano 50.000 lire, adesso stanno a 400.000 lire. Sì, quello è vero, io lo so, sono qua che la gente si è allontanata, qui soprattutto nella provincia di Sassari, poi nel resto della Sardegna non te lo so dire perché non è facile arrivare più in là di quei pochi chilometri, io posso arrivare, che so io, a Bonorla, posso arrivare a Bertida, posso arrivare, però poi il resto della Sardegna incomincia a essere un pochino difficile. Qualche volta sono arrivato anche a Olbia, ma non lo so se poi oltre ci sono ancora CB, ma suppongo che qualcuno ci sarà, non lo so, ma non posso confermarlo, Leo. Ma io quando ce l'avevo in macchina, arrivavo anche nella zona d'Italia, arrivavo, mettevo il radio, arrivavo in macchina, poi sono sparito, adesso abbiamo scaricato quell'applicazione che sta vincendo. Sì, ma non è come sì, infatti adesso il sistema è tutto cambiato, ormai la gente ha cambiato apparato, parlano al telefono anziché parlare al baracchino, è vero. Sì, è vero. Poi per quanto riguarda il continente, sì, il continente c'è sempre molta attività, ma se non c'è propagazione noi non è che ci possiamo adeguare lì. Anche stamattina ho fatto una puntatina sulla banda laterale e c'era il francese, stavo ascoltando, ma ho ascoltato 5 minuti, intanto non capisco niente della lingua francese, e allora ho cambiato subito. E quando ho cambiato, poi ho incontrato Natalino e ci siamo fermati lì su quel canale per almeno un'ora e mezza, non lo so di preciso, più o meno così. In tutta Italia ce ne sono come sulla Sicilia, ci sono ancora questo studio che è buono. Sì, da Sud Italia, quando c'è propagazione qui arrivano tutti a bomba, proprio in una maniera proprio bella, impressionante come radio e anche come segnale, no? Non ci sono dubbi. Qualcuno l'ho contato anche su YouTube, l'ho contato tante volte, perché ci sentiamo così, perché magari fa lui dei video, io li guardo, levando il mio giudizio eccetera eccetera, lui mi risponde gentilmente e così via, sì, soprattutto dalla Puglia, dalla Sicilia eccetera, arrivano qui, quando c'è propagazione buona arrivano a livello di 9-10, 9-20 anche in certe occasioni. Qualcuno che vuole entrare, la parte che vuole entrare, e io non lo so, adesso vedo quando mi sono affrontato. Quando metto barra pesante c'è una compagnia, ma tu stesso mi stai dicendo che non si sente nessuno, per cui è tanta gente, lo stesso motivo, ecco, questo è il motivo principale per cui la frequenza si è ridotta a pochissime persone, proprio perché nessuno più, io suppongo che non abbia voglia la gente, ma non è perché si sia stufato, abbia perso la passione per dubbi della radio eccetera, ma solo esclusivamente perché ci sono state oggi altre cose tecniche come il telefonino, come il computer, come il CB-Talk e tutte queste cose qua. Per cui però diciamo che il baracchino secondo me rimane sempre il numero uno per fare associazione generale fra di noi stessi, appassionati di radio, capito? Sì, ma poi adesso che non si paga neanche la tassa, la gente sbaglia, prima pagava la tassa e le abusi, ma adesso che non c'è tassa. Infatti adesso non c'è più tassa, non c'è più niente, per cui ma non era quello, suppongo, perché tanto la tassa che si pagava non è che facesse danno a nessuno, erano 12 euro l'anno, anzi la maggior parte della gente era proprio abusiva, proprio completamente abusiva, e perciò non era nemmeno quello il motivo. Da un certo periodo di tempo è venuto fuori il PMR, è venuto fuori, abbiamo tenuto per, non so, un paio d'anni così il discorso PMR, ma siccome ha una portata limitatissima e poi secondo dove ti trovi non passano la radiofrequenza, non passa perché se non c'è proprio libero spazio non c'è niente da fare in quella frequenza lì col PMR, però adesso è accantonato anche quello e che da più usato anche prima Sassari, se non si usava molto anche il PMR, ma adesso l'abbiamo proprio definitivamente abbandonato, anche se magari qualcuno ce l'ha ancora, però non lo usa più nessuno. Vabbè, comunque staremo a vedere cosa succede più in là, adesso magari con l'estate può darsi che qualcuno le ritorni la voglia anche, ma non credo perché sarà sempre un problema, perché essendo giornate bellissime in estate la gente preferisce magari farsi quattro passi o andarsi addirittura al mare a fare delle gite eccetera, anziché passare le ore al baracchino. Purtroppo prima si parlava sì anche tutta la notte, su tutti i canali c'era sempre un assemblamento di persone, di anche 20-30 persone su ogni canale, ma sto parlando degli anni 70, 80 e anche 90. Ma io, perché io ci sono in frequenza dal 1972, ti puoi immaginare, 52 anni e qualche mese anche. Tu mi dirai, dopo tutti questi anni non ti sei ancora stancato? No, non mi sono stancato perché la radio per me è stata sempre una grande passione, da quando ero piccolo, ho capito, lo devo. La gente perché adesso non capisce la cosa, adesso telefonino, anche telefonino c'è per pagare, ma questo è tu, fare, lo so, anche perché. Vabbè, chiaramente l'evoluzione dei tempi ci deve essere, ci deve stare, non ci sono dubbi. Però questa è una cosa che magari ti consentiva di chiacchierare, anche perché prima c'erano anche tante molte donne, c'era anche per quello. Forse siamo stati anche stupidi, cattivi o maleducati, non lo so, a seconda delle persone che ci sono state in frequenza e che hanno parlato male, qualcuno si è stancato, non ha voluto più sentire certe cretinate o certi discorsi importanti, li abbiamo anche fatti, perché no? Però di solito diciamo che in quei tempi c'era anche molta confusione e tanta gente suppongo che si sia anche allontanata anche pensando a quel motivo lì. Io l'avevo anche conosciuto di persona, una volta era venuto a Sassari e ci siamo incontrati, avevamo un appuntamento in un bar di Sassari e dunque da allora non l'ho più visto, cioè l'unica volta che l'ho visto, ma sto parlando di tantissimi anni fa, già ci manca tantissimo, come minimo ci manca, senza esagerare, minimo ci manca una quindicina di anni dalla frequenza, perlomeno per come mi ricordo io, ci manca così tanto. Sì, da questo, io con lui uscivamo assieme in macchina, poi lui mi attaccava da casa, io da casa, eravamo sempre in giro, quando sembravamo fare un assassino, tutti i posti abbiamo fatto, tirato, sempre modulando da una parte all'altra. Sì, e me lo ricordo bene. Sì, magari se lo rivedo non lo riconosco più, perché l'ho visto solo una volta. Ci siamo solo visti una volta e basta. Sapevo dove abitava, infatti un giorno mi sono trovato lì in quel paese, ho visto la sua antenna, ma non è che ci siamo incontrati il giorno, ci siamo incontrati un altro giorno a Sassari, che lui aveva fatto una passeggiata ed era venuto a Sassari e avevamo un appuntamento in un bar, io e altri civili, lo stesso, eravamo tutti lì prendendo un caffè e c'era anche lui, c'era, ma da allora che l'ha più visto. Mai più visto, nemmeno sentito, né visto né sentito più, perché mi ricordo parlava molto bene anche, molto a lungo, anzi volevo dire, non molto bene, molto a lungo con Gio Maria, parlava con Emanuele Ponzio Pilato, che ormai è defunto anche lui purtroppo, ha parlato anche a lungo anche con lui e dai tanti altri, insomma, ecco, c'era una cerchia di persone che tutti i santissimi giorni ci sentivamo, ma da allora basta, è chiuso, non si è più sentito. In moto era venuto con la moto, era venuto, me lo ricordo come se fosse oggi. E allora poi ha conosciuto la moto, la moto l'ha parcheggiata. No, io ho conosciuto questo baracchino che c'era attaccata alla gronda con una calavista. E arrivava un passo a passo, poi siamo usciti, l'abbiamo conosciuto. Anche tu sei fatto il figlio. Ho capito, hai cresimato il figlio, o lui l'ha cresimato il tuo figlio, com'è? Non ho capito bene. Sei tu che hai fatto da padrino o lui che ha fatto da padrino? Ma c'è qualcuno che sta parlando. No, c'è la propagazione, è la propagazione che c'è, capito? C'è propagazione, è per quello che interferisce. Sembra che si passi sopra, non ho capito, devo vedere. Perché c'è la propagazione da fuori, magari sono anche stranieri, per cui siccome arrivano abbastanza forte e qualche volta fanno interferenza e non si capisce quello che dice, non si capisce bene, però in linea di massima riescono lo stesso a dialogare con te sapendo quello che dici. No, tu sei arrivato bene. Ho cambiato la farina, questo c'è. Poi quando l'etichetta del palatino si intitolava 68 euro. Ah, ho capito, sì. Li conosco bene, tutti e due, li conosco bene, no? Anche soprattutto 48 era l'ideale soprattutto per la barra mobile, era il baracchino ideale per la barra mobile, che il preferito, diciamo, in linea di massima, un po' dai camionisti soprattutto, col 48 si facevano lunghe chiacchierate. Non hai capito, no. Nel frontale c'è scritto ala 48 col. Poi guardo la targhetta che c'è dell'omologazione dietro, c'è scritto ala 68 S. Adesso si capisce che paracchino è, un miscuglio questo. Allora gli hanno fatto, no, probabilmente gli hanno cambiato la mascherina davanti. Non so cosa dirti, quello lo potresti capire meglio tu che ce l'hai lì davanti, non so cosa dirti, oh Leo. Ecco, io l'ho preso in internet, perché non mi seguiva un palacchino per la parra, i miei, ce n'è uno che avevo comprato da Gio Maria, staccato delle saldature, l'ho portato a riparare al ghetto, ancora in là, e non l'ho visto. Poi ne avevo preso un altro da Gio Maria, l'ultimo di giugno lo chiamava lui, adesso lo sta uscendo. Era sempre fermo nel cassetto, adesso lo sta Lo so, perché diciamo che questi tecnici che fanno queste riparazioni, non è che ce ne sono tanti, non ce ne sono tanti, purtroppo è così. Però va fatto restituire, magari si fa una scappatina a Bolone, si fa, e può darsi che te lo ripari lui, anzi senza può darsi. Tante persone da Sassari vanno a Bolone, vanno per farselo riparare, da Albino a Bolone, lui le fa questi lavori. Ma questo ce l'avevo, funzionava bene, l'ho preso anche a Maria, funzionava. Poi l'ho messo nel cassetto, non l'ho usato più, funziona, insomma adesso lo attacco, perché gente in banda, sì, non l'ho messo, che non mi... Può succedere, così si dice che quando non si utilizzano spesso si può anche guastare, così dicono, poi non lo so sino a che punto sia vero questo discorso. Il fatto sta che tanta gente l'ha sempre detto e tanta gente continua anche a dirlo, gli apparati bisogna usarli, perché se no se li consegue così si rovinano senza usarli. Non so cosa dirti, o Leo. Ma è proprio così, perché se l'ho lasciato funzionando, l'ho messo nel mobile in un cassetto, non l'ho usato più, l'ho portato tempo, l'ho tolto fuori, l'ho attacco e non si sentiva niente, e usciva e ne ricevevo. Evidentemente è proprio così, ci sarà rovinato qualche condensatore, di solito i condensatori si seccano e allora basta che ce ne vada uno in avaria e va a finire che poi magari non trasmette oppure non riceve, dipende dal tipo di guasto che gli succede. Non so cosa dirti, non sono un tecnico e non è che me ne intendo più di tanto, però ti sto dicendo quello che ho sempre sentito. E crediamoci, se qualcuno lo ha detto evidentemente almeno qualcosa di verità ci sarà. Ecco, non ne so io qui cerchi un tecnico, non mi trovi questo l'Alghero. No, l'Alghero appunto ti sto dicendo, oppure lo spedisci fuori, c'è un tecnico, anzi più di uno, c'è uno in Puglia lì, mi sembra che sia a Lecce più o meno, una cosa del genere, un certo Flamic, guarda che fa molti video delle riparazioni che fa, te lo ripara, te li trasforma, te li aumenta, ti fa tante cose, perché lui è un ex carabiniere o un ex agente, che è andato in pensione e si è aperto questa attività. Evidentemente già lavorava nel settore radio, lui è un grande appassionato e adesso per integrare magari il suo stipendio di pensionato fa anche questi lavoretti. E so che è molto ma molto bravo, perché dappertutto gli mandano, anche dall'estero, gli mandano apparati per riparare. Un certo Flamic si chiama McKenzie di cognome, il nome non me lo ricordo, comunque su YouTube lo vede sempre, già fa dei video, fa, addirittura quando sta riparando fa il video mentre lo ripara, pensa un po', così puoi contattarlo se ti interessa, glielo spedisci dentro un pacchettino, tanto già costa poco a spedirlo, e poi te lo ripara alla grande. Leone, ci sei ancora? Attento Leone, ci sei ancora? Attento Leone, ci sei ancora? Io non ti sento, se ci sei e se quella portante è la tua, io non ti sento più. Leone, non so se mi stai ascoltando, comunque io ti saluto, dai, spero che tu mi stia ascoltando, perché io non riesco più a sentirti, Alle prossime, grazie comunque per la chiacchierata, fatevi risentire se coincide, e così faremo ancora quattro chiacchiere. Ciao Leone, grazie ancora e buona giornata a te, ciao, chiudo. Ora. Prova. Ora.